Aldous Huxley, l'autore del famoso Splendido Mondo Nuovo e nipote del biologo Thomas, nel 1936 ha scritto un saggio sull'albero dell'olivo. Fra le varie osservazioni, a dire il vero banalotte, del tipo l'olivo simboleggia la pace con le sue foglie e la gioia con il suo olio ambrato, beh, fra queste varie osservazioni ce n'è una che non può passare inosservata. L'olivo è il complemento della quercia. Perché? Perché i paesaggi luminosi dagli aspri profili in cui esso appare sono l'indispensabile correttivo di quella bellezza velata e indistinta dello scenario inglese. Non può passare inosservata oggi per noi, a maggior ragione che ieri per loro. Ieri per loro per l'alto tasso di sciocchezza tutta letteraria che l'osservazione contiene. Oggi per noi perché il passaggio dalla quercia all'olivo costituisce una metafora botanica ben nota della nostra triste attualità politica, apparentemente priva di alternative e di nomi sensati per designarle. Fino a pochi anni fa nessuno avrebbe avuto significati ulteriori da aggiungervi e fra qualche anno, sperando di essercene liberati, nessuno dovrebbe averci ancora significati ulteriori da aggiungervi. Nei giorni scorsi il semiologo Omar Calabrese interviene dall'alto del suo sapere per sconsigliare ai democratici per l'ulivo la scelta dell'asino come simbolo elettorale. Il fatto che l'asino rappresenti il Partito Democratico americano non esenterebbe i nostri politici dalle facili ironie. Calabrese ne cita alcune di queste eventuali facili ironie, tutte abbastanza ovvie, e ne dimentica una che potrebbe riassumerle tutte quante. Sarebbe infatti sufficiente ricordarsi una poesia che Carlo Alberto Salustri, noto in arte con lo pseudonimo anagrammatico di Trilussa, compose profeticamente in epoca da questo punto di vista non sospetta intorno al 1920. Si intitola Er porco, er somaro, e vale la pena di rileggerla attentamente, perché dice: una mattina un povero somaro nel vede un porco amico annar macello, sbottò in un pianto e disse: addio fratello, non se vedremo più, non c'è riparo. Bisogna essere filosofo, bisogna, gli disse il porco. Via, non fa lo scemo, che forse un giorno si ritroveremo in qualche mortadella de Bologna. E allo scopo di evitare, ecco, questi incidenti del percorso interpretativo degli elettori, allora il semiologo propone la sua ricetta. Per essere efficace un simbolo deve essere univoco, ovvero prevedere una unicità di significato. Calabrese fa l'esempio del semaforo, no? Tre unità espressive, rosso, giallo, verde, e tre unità di contenuto: fermi, attenti, passare. In virtù di questa triplice garantita corrispondenza, il semaforo sarebbe il simbolo perfetto. Se Calabrese avesse portato a termine qualche studio storico in più, saprebbe invece che le tre unità espressive sono già allo stadio evolutivo di precedenti due. Nel 1868, quando l'ingegner Knight installò il primo semaforo di fronte al Palazzo del Parlamento a Londra, le luci erano ovviamente due, rosso e verde. Calabrese poi Per la strada non ci va, a quanto sembra, non si è accorto che a certe ore, per esempio, c'è solo il giallo lampeggiante, non si è accorto delle freccine verdi, una dritta e una che gira a destra, oppure di quella che gira a sinistra, non si è accorto, insomma, che anche il linguaggio semaforico, come tutti i linguaggi, è cambiato, non resistendo ad un processo evolutivo che non ha risparmiato neppure il linguaggio, ma neppure quello dei sordomuti o il linguaggio dei cartelli stradali. Tutti i linguaggi evolvono. E Calabrese non si è accorto neppure che, peraltro, di città in città, già l'interpretazione dei tre segni principali cambia. Si faccia un confronto fra i comportamenti automobilistici di Napoli e di Zurigo per rendersene conto facilmente. Un simbolo designa univocamente il suo simbolizzato nel momento in cui è fatto simbolo da qualcuno, ma un momento dopo potrebbe già aver dovuto subire qualche lieve ritocco. Il simbolo univoco è un mito tipico di quelle ideologie scientistiche che, nell'escludere l'anarchico processo interpretativo del singolo, tengono bordone al potere costituito e ai suoi zelanti chierici. Un bell'esempio di evolutività del simbolo è ricavabile anche dalle recenti rivelazioni in ordine al rapimento della signora Alessandra Sgarella. Allora, la signora rapita, secondo il solito copione, viene invitata dai suoi rapitori a scrivere ai familiari onde accelerare i tempi e i modi del pagamento del riscatto. Ma durante il tragitto, e nonostante le precauzioni prese dai rapitori, la signora si è resa conto del posto in cui è stata condotta e più o meno seppellita. Ne sa addirittura il nome. Il biglietto diventa dunque un'occasione di salvezza. Accetta di scriverlo e lo scrive tutto in corsivo, con l'avvertenza tuttavia di scrivere in stampatello e in più grande qua e là alcune lettere. Lettere che, lette una dopo l'altra, formavano il nome del paese in cui si trovava: a Bovalino. A perenne dimostrazione che simboli non si nasce, ma si diventa, in seguito a operazioni mentali specifiche e non certo per loro natura, i rapitori non si accorsero di nulla, mentre il marito e gli investigatori sì. A perenne dimostrazione della diffusa consapevolezza circa il tasso di evolutività dei simboli, però, gli investigatori ritennero che la simbolicità dello scritto fosse troppo evidente per essere vera e credettero di trovarsi di fronte ad un sottile inganno dei rapitori, la famosa falsa traccia. Gli investigatori avevano visto, per così dire, un film in più rispetto ai rapitori, ma non potevano saperlo e dunque si sono comportati assecondando quell'ideologia corrente in certi contesti che vorrebbe i cattivi astutissimi e intelligentissimi. E per questo scarto culturale il rapito aspetta. Più che l'asino, dei democratici per l'Ulivo a me preoccuperebbe il nome. C'è stato un momento in cui i vari partiti, tutti più o meno sedicenti democratici, si sono riuniti nel simbolo dell'olivo per cercare di realizzare un programma più e meno comune. L'ulivo era chiaramente un mezzo. Oggi che siamo in un momento successivo, qualche sedicente democratico si mette d'accordo per averci come scopo il mezzo di prima. E il nome scelto altro non designa. A tanto poco si riducono le volontà politiche. Sembrerebbe essere il caso allora in cui fra il simbolo e il programma di un partito c'è lo stesso rapporto che intercorre fra un autore e la propria opera. I'm gonna clear out my head, I'm gonna get myself straight, I know it's never too late to make a brand new start. I'm gonna kick down the door, I'm gonna get myself in, I'm gonna fix up the yard and not fall back again. I'm gonna clear up my earth and build a heaven on the ground, not something distant and unfound.